come risollevare il Piemonte dalla crisi economica. Di questo si è parlato al 12° congresso regionale della CISL, che oggi a Torino ha rieletto Alessio Ferraris alla segreteria. Ma la segretaria generale Anna Maria Furlan ha parlato anche della crisi all'Italia. I 329 delegati intervenuti ieri e oggi al 12° congresso della CILS Piemonte hanno riconfermato alla guida Alessio Ferraris per altri 4 anni. Tra le sue priorità, l'estensione delle tutele contrattuali a categorie oggi escluse. Ci si trova talvolta nella stessa unità produttiva, fianco a fianco, il lavoratore che ha la giacca della ditta, che ha orari, salari e tutele diverse da quello che sta di fianco e non ha la giacchetta della ditta. Al congresso si è parlato molto di Piemonte, che sta cercando di ripartire dopo aver perso 60.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi, come ha sottolineato la segretaria generale della CILS, Anna Maria Furlan, arrivata oggi a Torino. Ho trovato un Piemonte che è una cartina al tornasole della crisi che ha vissuto il nostro paese, che continua a vivere nonostante qualche segnale di ripresa ci sia. Ma Furlan non si è sottratta dall'intervenire anche su temi di carattere nazionale, a partire dalla vicenda l'Italia. L'Italia va affrontata come un tema industriale, come viene rilanciata, come davvero mettendo i conti a posto si creano anche prospettive per il futuro. Vanni Caratto, TGR Piemonte. Tra poche ore in